L'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino. Musiche di Bruno Nicolai. Regia di Nanni De Stefani. Quarta puntata. Rinaldo e Ginevra. Lettura poetica di Alberto Lupo. Narratore Gianni Bonagura. Mentre la Francia è campo di battaglia degli eserciti regolari, franco e saraceno, l'Inghilterra resta il teatro delle avventure solitarie dei cavalieri erranti, come ai tempi di Re Artù. Tra le selve della Caledonia basta scrutare tra tronco e tronco per scorgere un cavaliere che combatte con un drago, o una fanciulla che chiede soccorso perché è inseguita da un gigante. Rinaldo è stato mandato da Carlo Magno in Inghilterra con una missione militare ben precisa: chiedere rinforzi per Parigi assediata. Ma durante il viaggio si può ben permettere il diversivo di una nobile impresa individuale: riparazione di torti, salvezza di vittime innocenti o difesa dell'onore di una dama. C'è un'abbazia dove sogliono rivolgersi tanto le persone minacciate da pericoli quanto i valorosi in cerca di avventure. Rinaldo va a chiedere se sanno di qualche causa generosa al cui servizio può essere messa la sua spada. Rinaldo l'altro e l'altro giorno scorse, spinto dal vento, un gran spazio di mare, quando a ponente e quando contra l'orse, che notte e dì non cessa mai soffiare. Sopra la Scozia ultimamente sorse, dove la selva Calidonia appare, che spesso fra gli antichi ombrosi cerri sode sonar di bellicosi ferri. Vanno per quella i cavalieri erranti, incliti in arme di tutta Bretagna, e dei prossimi luoghi e dei distanti, di Francia, di Norvegia e della Magna. Chi non ha gran valor non vada innanti, che dove cerca onor morte guadagna. Gran cosa in essa già fece Tristano, Lancillotto, Galasso, Artù e Galvano, e altri cavalieri e della nuova e della vecchia tavola famosi. Restano ancor di più d'una lor prova li monumenti e li trofei pomposi. L'arme Rinaldo e il suo baiardo trova, e tosto si fa por nei liti ombrosi, e al nocchier comanda che si spicche e lo vada aspettare a Beroicche. Senza scudiero e senza compagnia va il cavalier per quella selva immensa, facendo or una e or un'altra via, dove più aver strane avventure pensa. Capitò il primo giorno a una badia, che buona parte del suo aver dispensa in onorar nel suo cenobio adorno le donne e i cavalier che vanno attorno. Bella accoglienza i monachi e l'abbate fero a Rinaldo, il qual domandò loro, non prima già che con vivande grate avesse avuto il ventre amplo ristoro, come dai cavalier sien ritrovate spesso avventure per quel tenitoro, dove si possa in qualche fatto egregio l'uom dimostrar se merta biasmo o pregio. Risposogli che errando in quelli boschi trovar potria strane avventure e molte, ma come i luoghi i fatti ancor son foschi, che non se n'ha notizia le più volte. Cerca, diceano, andar dove conoschi, che l'opre tue non restino sepolte, a ciò dietro al periglio e alla fatica segua la fama e il debito ne dica. E se del tuo valor cerchi far prova, t'è preparata la più degna impresa che nell'antiqua etade o nella nova giamai da cavalier sia stata presa. Ginevra, figlia del re di Scozia, queste sono le notizie che Rinaldo raccoglie all'abbazia, è stata accusata di aver fatto entrare nel suo balcone a mezzanotte un amante sconosciuto. Per un'accusa di questo genere, la dura legge di Scozia prevede la pena di morte. La principessa morrà, a meno che un cavaliere non si presenti a smentire, armi alla mano, il barone Lurcanio, l'accusatore. Ottima occasione di farsi onore per Rinaldo. La voce pubblica sostiene che Ginevra è virtuosa quanto bella e che sotto l'accusa di Lurcanio si cela chissà quale intrigo. Rinaldo prende subito a cuore l'impresa. ma non perché egli si senta di escludere che la principessa a mezzanotte fosse al balcone o chissà dove. Quel che faceva la principessa, fatti suoi. Se Ginevra era davvero innamorata, se aveva trovato la sua felicità in un amore appassionato, tanto più la legge che la colpisce è crudele. Sarà contro l'ingiusta crudeltà della legge di Scozia che Rinaldo si batterà a duello, in difesa non solo di Ginevra, ma di tutti gli innamorati. Questo Lurcanio al padre l'ha accusata, forse per odio più che per ragione, averla a mezzanotte ritrovata trarre un suo amante a sé sopra un verrone. Per le leggi del regno condannata al fuoco fia se non trova campione che fra un mese, oggi mai presso a finire, l'iniquo accusator faccia mentire. L'aspra legge di Scozia, empia e severa, vuol ch'ogni donna e di ciascuna sorte ch'ad uom si giunga e non gli sia mogliera, s'accusata ne viene, abbia la morte. Né ripararsi può che ella non pera, quando per lei non venga un guerrier forte che tolga la difesa e che sostegna che sia innocente e di morire indegna. Il re, dolente per Ginevra Bella, che così nominata è la sua figlia, ha pubblicato per città e castella che s'alcun la difesa di lei piglia e che l'estingua la calunnia fella, purché sia nato di nobil famiglia, l'avrà per moglie, e uno stato, quale fia convenevol dote a donna tale. Ma se fra un mese alcun per lei non viene, o venendo non vince, sarà uccisa. Simile impresa meglio ti conviene ch'andar pei boschi errando a questa guisa. Oltre con ore fama te n'avviene chi in eterno da te non fia divisa, guadagni il fior di quante belle donne da Lindo sono all'Atlantee colonne, e una ricchezza presso, e uno stato che sempre farti può viver contento, e la grazia del re, se suscitato per te, gli fia il suo onor, che è quasi spento. Poi per cavalleria tu sei obbligato a vendicar di tanto tradimento costei, che per comune opinione di vera pudicizia è un paragone. Pensò Rinaldo alquanto e poi rispose. Una donzella dunque dè morire perché lasciò sfogar nell'amorose sue braccia al suo amator tanto desire. Sia maladetto chi tal legge pose, e maladetto chi la può patire. Debitamente muore una crudele, non chi dà vita al suo amator fedele. Sia vero o falso che Ginevra tolto s'abbia il suo amante, io non riguardo a questo. D'averlo fatto la loderei molto, quando non fosse stato manifesto. Ho in sua difesa ogni pensier rivolto, datemi pur un chi mi guidi presto, e dove sia l'accusator mi mene, ch'io spero in Dio Ginevra trar di pene. Non vo già dir ch'ella non l'abbia fatto, che non sapiendo il falso dir potrei, dirò ben che non dè per similatto punizion cadere alcuna in lei, e dirò che fu ingiusto, che fu matto chi fece prima gli statuti rei, e come iniqui rivocarsi denno, e nuova legge far con miglior senno. Su un medesimo ardor, su un disir pare, inchina e sforza l'uno e l'altro sesso a quel suave fin d'amor, che pare all'ignorante vulgo un grave eccesso, perché si dè punir donna o biasmare che con uno o più d'uno abbia commesso quel che l'uom fa con quante n'ha appetito, e lodato ne va, nonché impunito. Son fatti in questa legge disuguale veramente alle donne espressi torti, e spero in Dio mostrar che gli è gran male che tanto lungamente si comporti. Rinaldo ebbe il consenso universale, che fur gli antichi ingiusti e male accorti, che consentiro a così iniqua legge, e mal far re che può né la corregge. Poi che la luce candida e vermiglia dell'altro giorno aperse l'emispero, Rinaldo l'arme e il suo baiardo piglia, e di quella badia tolle un scudiero che con lui viene a molte leghe e miglia, sempre nel bosco orribilmente fiero, verso la terra ove la lite nuova della donzella deve venire in prova. Rinaldo si presenta alla corte di St. Andrews per sfidare Lurcanio, ma si accorge di essere stato preceduto. Un cavaliere sconosciuto, che non vuole scoprire il suo volto, è giunto in città prima di lui e si è dichiarato pronto a difendere l'onore di Ginevra in duello. A Rinaldo duole di non poter sostenere con le armi una causa gentile, ma ancor più gli duole di non veder chiaro in quel che sta succedendo. Nella storia di Ginevra ci sono troppe cose che non quadrano. Rinaldo cerca di mettere insieme tutti gli elementi. Non è escluso che Ginevra possa essere salvata senza nemmeno impugnare la lancia. Tanto per cominciare, prima del fatto che le è stato imputato, Ginevra era stata assiduamente corteggiata da Polinesso, duca d'Albany, e l'aveva respinto. Aveva invece gradito la corte di un giovane cavaliere italiano, Ariodante, e se n'era, a detta di tutti, follemente innamorata. Quando ecco che Ariodante, insieme a suo fratello Lurcanio, aveva scoperto che Ginevra era in realtà l'amante di qualcun altro. Disperato, aveva lasciato la corte di Scozia e dopo qualche tempo era giunta la notizia del suo suicidio. Lurcanio, per vendicare la morte del fratello, aveva denunciato la principessa, rivelando la scena del balcone che giurava d'aver visto con i suoi occhi mentre era in compagnia del fratello. Chi fosse l'amante non sapeva. Forse Ariodante ne conosceva il nome, ma aveva portato il segreto nella tomba. La matassa era ingarbugliata. Come se non bastasse, la notizia della morte di Ariodante aveva disperato Ginevra più ancora che la propria condanna a morte. La principessa lo amava ancora, dunque. Ma se lo amava, come si spiegava la scena del balcone? Chi doveva saperne più degli altri era la fantesca di Ginevra, Dalinda. Rinaldo cerca Dalinda per interrogarla e scopre che è scomparsa misteriosamente. Che donna era questa Dalinda? Corre voce che avesse avuto tempo addietro una tresca con Polinesso duca d'Albany, il corteggiatore respinto di Ginevra. Rinaldo si butta sulle sue tracce. Si inoltra in un bosco, si imbatte in due sgherri che stanno per trucidare una giovane, li mette in fuga. La giovane è proprio Dalinda, che stava per essere uccisa dagli uomini del duca d'Albany. Siamo in una terra crudele, dove la violenza s'accanisce contro le donne inermi, pensa il generoso Rinaldo, ma è lungi dal supporre la trama di malvagità che Dalinda prende a confidare al suo salvatore. Avean, cercando abbreviar camino, lasciato pel sentir la maggior via, quando un gran pianto udir sonar vicino che la foresta d'ognintorno empia. Baiardo spinse l'un, l'altro il ronzino verso una valle onde quel grido uscia, e fra due mascalzoni una donzella vider, che di lontan parea assai bella, ma lacrimosa e addolorata quanto donna o donzella o mai persona fosse. Le sono due col ferro nudo accanto per farle far l'erbe di sangue rosse. Ella con preghi differendo alquanto giva il morir, sinché pietà si mosse. Venne Rinaldo, e come se n'accorse con alti gridi e gran minacce accorse. Voltaro i malandrin tosto le spalle, che il soccorso lontan vider venire, e se a piatar nella profonda valle. Il paladino non li curò seguire. Venne alla donna, e qual gran colpa dalle tanta punizion cerca d'udire. E per tempo avanzar fa allo scudiero levarla in groppa e torna al suo sentiero. E cavalcando poi meglio la guata, molto esser bella e di maniere accorte, ancor che fosse tutta spaventata per la paura ch'ebbe della morte. Poi che la fu di nuovo domandata chi l'avea tratta sì infelice sorte, incominciò con umil voce a dire quel ch'io vo all'altro canto differire. Tutti gli altri animai che sono in terra o che vivono quieti e stanno in pace, o se vengono a rissa e si fan guerra, alla femmina il maschio non la face. L'orsa con l'orso al bosco sicura erra, la leonessa presso il leon giace, col lupo vive la lupa sicura, né la juvenca ha del torel paura.

che s'era salvato per miracolo dal suo tuffo nell'abisso. Il popolo si mette in festa e il vecchio sovrano e padre si rallegra di dover condurre la figlia invece che al patibolo alle nozze. Dalinda, perdonata delle sue colpe per intercessione di Rinaldo, andrà monaca in un convento di Danimarca. Rinaldo s'accommiata e continua il suo viaggio. Abbiamo trasmesso la quarta puntata dell'Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, raccontato da Italo Calvino.